sfioro il tuo profilo, poi mi fermo un attimo per giocare con i tuoi capelli che nel vento volano, prima di scoprire un bacio nuovo che sapore avrà. Capirino le cose dette mai, di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Sembra cominciata già una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi, arriverà Natale senza nulla. Noi siamo qui, amici di Radio Erica, buon pomeriggio, Aurelio Tagliaboschi vi augura il buon ascolto per questo 27 aprile, martedì, aprile del 2010, chiaramente sono trascorsi in questo momento 39 minuti dopo le ore 18, un pomeriggio ancora una volta all'insegna del tempo perturbato, cioè pioggia purtroppo ancora una volta, una mattinata piena di sole, ma poi alla fine ci ritroviamo con una pioggia insistente che ci rovina sicuramente il pomeriggio, ci inzuppa un po', ma insomma alla fine però tutto sommato ce la caviamo comunque, vero? Freddo poi non fa, anche se comunque siamo arrivati anche a maggio, ormai la settimana si concluderà proprio con l'inizio del mese di maggio, sabato prossimo sarà appunto 1° maggio, la festa dei lavoratori, quindi ci incamminiamo anche al termine del mese di aprile. Allora, apriamo con le nostre consuete pagine dedicate all'informazione, alle notizie più importanti dell'ultima ora che vengono pubblicate dalle testate online che di solito noi leggiamo a questo punto, e parliamo del Messaggero e di Repubblica che appunto mandano in onda in questo momento, ma con aggiornamenti quasi costanti ogni 10-15 minuti addirittura, le loro testate online. Si può raggiungere i siti del Messaggero di Repubblica andando anche sul sito ufficiale di Radio Ernica, radioernica.com, dove c'è una parte di link appunto da dove chiaramente si può accedere a quella che è la testata di Repubblica del Messaggero. Allora, apriamo proprio con Repubblica, vediamo l'ultima ora, l'ultimo testo appena aggiornato. La situazione dal punto di vista finanziario che sta interessando la Grecia, situazione veramente molto particolare, crollano le borse, Milano perde oltre il 3%, il vendetto delle agenzie di rating, i titoli greci sono spazzatura, l'outlook di Standard & Poor's boccia Atene, mentre il governo lancia un allarme, non siamo in grado di rivolgerci ai mercati. E mette fretta all'Unione Europea, al Fondo Monetario Internazionale. La differenza con i titoli di Stato tedeschi sale al massimo da 12 anni e le borse perdono il 6%, stangata anche sul Portogallo, una vicenda che purtroppo sta portando gravi disguidi dal punto di vista finanziario un po' in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa. Una bambina carbonizzata nell'auto, il fuoco è stato appiccato dalla madre, siamo sempre su Repubblica Online. È accaduto a Benevento, la piccina aveva 7 mesi, la donna che ha 4 figli si è salvata, problemi psicologici. In un primo tempo si era parlato di un incidente, poi la ricostruzione, ha cosparso di benzina il sedile posteriore, poi ha acceso il rogo, la donna è stata arrestata. Il gruppo del PDL, c'è una vera sfida in corso, è quella di Bocchino. Mi candido alla presidenza. Lettera di dimissioni da vicepresidente del gruppo a Montecitorio. Da regolamento deve dimettersi anche il presidente, ma i deputati sostengono il contrario. L'esponente Finiano propone di contarsi e chiede un incontro con Berlusconi. Si candida, si presenta, vuole sapere chi sono gli uomini di Fini, quanti stanno su questo progetto politico. È Repubblica ancora. Napolitano, messaggio ai magistrati, serve autocritica, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, rispetto, lo diamo e lo chiediamo. È stato preso un boss, arrestato un boss, si chiama Tegano, ma la folla applaude definendolo un uomo di pace. Il questore Cestro dice che è vergognoso, gli applausi dovevano essere per la polizia. Catturato a Reggio in fuga dal 1993, deve scontare l'ergastolo, titola la testata di Repubblica. Ancora altre notizie sempre da Repubblica, ancora con Bambino che denuncia i servizi segreti russi, siete incapaci di prevenire i terroristi. Il piccolo rimasto orfano dopo gli attentati alle stazioni di Lubyanka e a Perl della metropolitana russa, citerà in giudizio tramite il proprio avvocato il Comitato Nazionale dell'Antiterrorismo, dicendo che praticamente non sono incapaci di fare una giusta guerra al terrorismo i suoi amministratori. Ancora il nucleare in Italia, sono già 90.000 le tonnellate di scorie nucleari presenti nel nostro paese. Rapporto dei Verdi nel 24esimo anniversario del disastro di Chernobyl. Nei 20 anni dopo la chiusura delle centrali, il nostro paese ha speso 20 miliardi per gestire i rifiuti. Gli ambientalisti si mobilitano contro il progetto del governo. Era la prima pagina della Repubblica online. Spostiamoci adesso per completare questo primo quadro informativo per quest'oggi da Radio Ernica con il Messaggero online, che apre invece con Napolitano che parla ai giudici, fate autocritica, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, diamo e chiediamo rispetto, il Presidente della Repubblica, aprire una nuova stagione tra la politica e la magistratura, non cedere ai protagonismi. PDL, la sfida del Finiano Bocchino e scontro sul capogruppo alla Camera, alta tensione nel partito, i federissimi del presidente di Montecitorio chiedono la conta. Resta altissima la tensione nel PDL dopo che ieri Gianfranco Fini ha assicurato che resterà dentro al partito, leale al governo e alla maggioranza. Ancora la crisi greca, Standard & Poor's declassa i titoli del paese, sono spazzatura. L'Andrangheta, preso il boss Tegano, la folla lo applaude dicendo che è un giudice di pace. Telecamere, il gradante fissa nuove regole per rispettare la privacy. Essere sorvegliati da una videocamera va bene, ma a patto che siano rispettate le regole. Ci deve essere un documento che per l'appunto avvisi che la zona è videosorvegliata e che ci sono delle telecamere. Ancora la benzina con una nuova ondata di rincari, Saglia vede l'antitrust, il Partito Democratico attacca, nuovi rincari dei carburanti dopo l'ondata di rialzi di ieri. Oggi i prezzi sono stazionari, ma la situazione è in un continuo crescendo. Ancora la RAI, soluzione per i casi Ruffini e Minoli, il consiglio di amministrazione diviso sull'ex direttore di RAI 3. I casi Ruffini e Minoli in RAI hanno avuto una soluzione, varata la scelta. Ancora a Bologna, una donna uccide la suocera e tenta poi di uccidere a sua volta il marito, che resta invece gravemente ferito. I casi Ruffini e Minoli, torniamo alla notizia di prima, in RAI hanno avuto una soluzione, varata la scelta più prospettata la settimana scorsa dal direttore generale Masi. L'ex direttore di RAI 3 Ruffini, che ha fatto causa all'azienda per essere reintegrato, va la responsabilità di Rai 4, Rai Move, Rai Storia e Rai Educational, mentre andranno a Giovanni Minoli, che a fine maggio andrà in pensione. Viene affidato il coordinamento della struttura, che si occuperà delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia e la responsabilità del format La Storia Siamo Noi. E questa è la soluzione per i due posti a riposo forzoso. E queste erano anche le notizie principali della prima pagina del Messaggero online, che è per l'appunto in onda sul sito del Giornale Romano in questo momento, alle 18:48 minuti, proprio in questo istante è stato aggiornato con le ultime notizie. Allora, prima di passare ad una breve pausa musicale e pubblicitaria, vorrei darvi la lettura soltanto della prima pagina di Sociaria Oggi, quindi notizie locali. Terremoto all'ASI, ieri pomeriggio un colpo di scena, il presidente Arnaldo Zeppieri si è dimesso. I motivi sono del tutto personali e il consiglio di amministrazione ha nominato il nuovo direttore del consorzio, che è l'ex direttore generale del comune di Frosinone, Antonio Loreto. Da ieri pomeriggio Arnaldo Zeppieri non è più il presidente del consorzio ASI di Frosinone. Le dimissioni sono giunte al termine del consiglio di amministrazione, chiamato tra le altre cose ad eleggere i nuovi direttori. Il direttore del consorzio è stato individuato in Antonio Loreto. Alla base delle dimissioni, ha spiegato Zeppieri, solo ragioni del tutto personali. Ancora la questione politica la fa da padrona sui giornali locali, la questione politica della mancata nomina di assessori provinciali, assessori della provincia di Frosinone alla Regione Lazio. Un coro unanime di protesta in Ciociaria, titola Ciociaria Oggi, la giunta Polverini lascia il Frosinate a bocca asciutta e scoppia una protesta, i vertici romani sotto accusa. Nulla avevamo chiesto, ma nulla abbiamo ottenuto, tradito l'esempio di Berlusconi, titola il giornale del senatore Ciarrapico in prima pagina. Ancora altre notizie da Morolo, un terzetto di malviventi rapina e terrorizza una famiglia in casa. Ad Alatri, ferito alla mano da un cane, da un Rottweiler. Ancora a Frosinone, il calcio questa volta, lo sport. In conclusione di questa prima pagina di Sociaria Oggi di oggi, Carboni è il nuovo allenatore del Frosinone, lo ricorderanno sicuramente i nostri ascoltatori, ne abbiamo dato notizia anche ieri ampiamente. Ha diretto il primo allenamento e ha anche parlato, sì, bene, ha rilasciato delle dichiarazioni anche confortanti, si dichiara sicuro della salvezza. Guido Carboni ha iniziato ieri pomeriggio la sua avventura sulla panchina del Frosinone. Il tecnico toscano ha promesso il massimo degli impegni, dicendosi sicuro della salvezza dei canarini. Staremo a vedere chiaramente se ci sarà possibilità di salvezza della squadra ciociara, che nel frattempo è appaiata al quintultimo posto insieme con la Triestina. Allora, siamo arrivati, vediamo un po', sono le 18:50 minuti prima in questo istante, una breve pausa musicale, sicuramente a questo punto ci vuole senz'altro. Guardare,

Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire, da coprire per non vergognarti. Scivoli di nuovo ancora come se non aspettassi altro che sorprendere le facce distratte, troppo assenti per capire i tuoi silenzi. C'è un mondo di intenti dietro gli occhi trasparenti. E chiudi un po', e chiudo un po'. Che chiudi. Allora, eccoci qua, siamo tornati in diretta, siamo tornati in onda sempre con Radio Ernica, amici ascoltatori. Vediamo se riusciamo a mandarvi in onda una ultima edizione del radiogiornale dell'ANSA, dove ci dovrebbero essere delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica sulla giustizia. Dovrebbe partire, un attimo soltanto, dovrebbe per arrivare in questo momento. No, non riusciamo a programmarvi quanto vi avevamo promesso, vediamo se riusciamo tra qualche istante. Eccolo qui. ANSA Live Headlines. Edizione delle Evidentemente ci sono problemi audio in questo momento perché c'è cattivo tempo, non riusciamo ad avere una continuità nel collegamento, forse lo ristabiliamo, vediamo, con calma, alla fine forse ci pure riusciamo. No, vabbè, dai. Cercheremo più tardi di mandarvi in onda questo notiziario. Avevamo ascoltato in precedenza il collegamento e c'erano delle notizie sempre sulla giustizia, si riportavano le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Napolitano all'incontro con gli uditori giudiziari, ma ci torneremo su questa notizia. La notizia del giorno invece è la Giunta regionale del Lazio che ha emanato il suo primo provvedimento, 13 assessori freschi di delega, varcano la soglia ambita, fuori e dentro serpeggiano dei malumori, esclusi dal PIL in testa. La Giunta parte al risparmio, la prima delibera è per la riduzione dei costi, la Polverini dice da oggi siamo messi alla prova. Con Antonio Cicchetti che arriva con qualche minuto di ritardo e si perde la foto di gruppo, si apre ufficialmente il regno di Renata Polverini nel Lazio. Intorno al tavolo gli assessori della Giunta con sole due donne. Volti nuovi, altri molto conosciuti, una scia di polemiche interne al PDL, senza contare il caso degli UDC. Emozionati alcuni, già pronti a darsi da fare altri, 13 più il neopresidente e la prima delibera votata taglia le spese di gestione per 5 milioni di euro. Insomma, non è una cosetta da poco, risparmio. L'assessore Reatino, 14.000 preferenze, ex AN, buca lo scatto che immortala la formazione nei minuti precedenti il conclave di insediamento. È il centrodestra al governo, la domenica se n'è andata con nomi, deleghe e scontenti. Renata Polverini alla fine con pugno di ferro non soddisfa le esigenze di tutti, da Gramazio a De Lillo, e chiude una giunta a 13, lei esclusa, tenendosi la sanità come noto e anche altre deleghe come quella del personale. Gramazio attacca criteri e nomi, alcuni sono di poco merito. Purtroppo la formazione della Giunta Polverini è in controtendenza con le indicazioni del presidente Berlusconi, dice Gramazio. In campagna elettorale Berlusconi aveva detto altre cose, questo perché le indicazioni fornite dai vertici locali del PDL fanno pensare più a una scelta tesa a difendere rendite di posizione di taluni potentati che una scelta basata sul lavoro, sull'operazione e sull'affidabilità. Forse non avremmo dovuto aspettare molto di più da ciò che, da chi finora non ha brillato per lucidità e ragionamento e raggiungimento degli obiettivi, come dimenticare la questione delle liste del PDL, ma speravamo in una gestione più collegiale e rappresentativa di tutte le forze che hanno contribuito alla fantastica vittoria del presidente Polverini al momento della formazione della giunta. Le critiche arrivano da Roma. Gramazio, consigliere comunale del PDL, che continua proprio a Renata, vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, sperando che riesca a garantire equilibrio politico fondamentale per operare al meglio, che purtroppo per alcuni amministratori suoi vicini di casa sembra un lontano miraggio. Questa è la critica che viene dalla stessa parte politica della Polverini, quindi dal centrodestra. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Gramazio, che sono piuttosto critiche. Lucherini invece dall'altra parte dice: è sicuro, la squadra dei 14 è debole, una giunta che nasce debole e che sorprendentemente lascia fuori l'UDC, che pure era stato decisivo nell'assegnare la vittoria alla Polverini, così dice Carlo Lucherini, consigliere regionale del Partito Democratico. Grave poi anche il trattamento riservato alle donne, la cui presenza, Polverini esclusa, è ridotta a 2 con ben 11 uomini, una composizione fatta al limite del rispetto dello statuto regionale. Nonostante i proclami alla vigilia, questa giunta appare fatta con il bilancino dalle correnti nazionali del Partito delle Libertà, un catapultamento nel Lazio con assessori messi dai capi corrente XN, ex Forza Italia. A questo punto, continua il consigliere regionale Lucherini, il Partito Democratico deve avere la capacità di riorganizzarsi, di mettersi in campo con importanti proposte e chiaramente anche con una opposizione forte che sia in grado di realizzare convergenze tra tutte le forze di minoranza. Insomma, abbiamo potuto ascoltare che non c'è concordia sui giudizi di questa neonata giunta Polverini, che ha iniziato appunto oggi con un primo atto deliberativo. Sono le 19, 10 minuti primi, arriva anche Marco, che chiaramente ci terrà compagnia sino al termine dell'appuntamento odierno con il nostro spazio in diretta ogni giorno su Radio Ernica. Beh, prendo la palla a sbalzo, come si dice ad Anagni. Intanto un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Ernica. Beh, prendo la palla a sbalzo perché, insomma, questa situazione della giunta della Regione Lazio mi sembra effettivamente una situazione un po' deboluccia, praticamente. Cioè, mi sembra che la Polverini sia riuscita a scontentare molti più che a accontentare molti, forse ha accontentato pochi. È vero è che aveva quella situazione chiaramente non troppo bella, quella dell'assenza della lista del PDL nella provincia di Roma e Roma città, e quindi è partita tra virgolette un po' svantaggiata sotto questo punto di vista. Ha dovuto accontentare quelli che si sono dati da fare e non hanno potuto candidarsi perché la lista non c'era. Ma quello che effettivamente non si capisce è la vicenda della provincia di Frosinone, cioè è veramente assurdo questo che riguarda la provincia di Frosinone, perché non si capisce a quale logica abbia voluto obbedire, considerando anche che insomma sono le province che hanno decretato la vittoria della Polverini, e la provincia di Frosinone in particolar modo con un 61% netto, con candidati di quella lista che hanno lavorato tantissimo, sono andati fortissimi. Quindi come si fa effettivamente a digerire una cosa del genere? Credo che in questa vicenda lo spirito di partito è prevalso, ma non so fino a quando questo spirito di partito potrà reggere nel futuro, perché insomma È vero che si dice sono state accontentate due persone con due incarichi istituzionali, cioè la presidenza del Consiglio e l'incarico di capogruppo per Fiorito, ma sono due incarichi che poco hanno a che fare con l'attività, come dire, operativa nel contesto della provincia. Cioè, sappiamo bene che il ruolo dell'assessore regionale è un ruolo importantissimo nel contesto di una provincia. Oggi la provincia di Frosinone non ha una rappresentanza istituzionale e questo, indipendentemente dalle posizioni politiche, deve fare indignare tutti, perché non si capisce perché la provincia di Viterbo possa avere una rappresentanza e non la possa avere la provincia di Frosinone. Quindi non sappiamo cosa accadrà nel futuro. Qui si vedono le foto sul giornale dei consiglieri Amata e Di Carlo, che addirittura dicono andremo a Roma con la fascia nera listata al braccio. Non sappiamo cosa potrà accadere. Certo è che è un forte elemento di disturbo sarà questa decisione. Io credo che avrà effetti negativi sulla vita dell'amministrazione regionale. Dalla controparte però c'è anche da registrare che comunque la Polverini afferma questa è una giunta fortemente coesa con il Presidente, perché fortemente voluta dal Presidente. I fatti, i risultati daranno ragione al Presidente, quindi praticamente è una giunta dove praticamente c'è rispetto tra l'una e l'altra, tra i vari assessori c'è sinergia, quindi c'è sicuramente una unione di intenti per poter procedere all'amministrazione della cosa pubblica, e questo quanto risponde il Presidente. Ma c'è comunque l'aspetto fondamentale, che io ritengo sicuramente uno degli aspetti più importanti, è che praticamente l'UDC, il partito di Pier Ferdinando Casini, che ha appoggiato e fortemente voluto questa candidatura della Polverini alla presidenza della Regione Lazio e ha contribuito non poco con il risultato elettorale, se non così di ampio consenso, ma comunque la percentuale del 5-6% riscontrata in campo regionale dell'UDC, ma soprattutto con numeri anche sulle province ben più consistenti, che hanno consentito alla Polverini stessa di essere eletta presidente. Determinante l'apporto dell'UDC, e in questa fase l'UDC non è rappresentata assolutamente in giunta, e quindi i suoi uomini, 6 consiglieri regionali, non è poca cosa, in questo momento non amministrano, chiaramente fanno sapere al Presidente che appoggeranno l'azione politica del governatore del Lazio stando fuori dalla giunta e decidendo su quello che per l'appunto la giunta deciderà in base a quello che è il programma sottoscritto all'inizio della campagna elettorale con la candidatura. Questo è un aspetto sicuramente molto particolare, che non mancherà, secondo me, di creare qualche problema cammin facendo all'attuale amministrazione. Hai letto anche le posizioni di Iannarilli? Beh, c'è questo richiamo qui dove dice che PDL ha avuto 103.000 voti a Frosinone e resta fuori, mentre Viterbo con 54.000 e Rieti con 26.000 sono dentro. No, così non va, e in effetti i numeri sono numeri. Mi pare che ci sia veramente poco da interpretare. Allora, un attimo soltanto per l'ultimo aggiornamento del radiogiornale dell'ANSA che programmiamo, è soltanto un minuto, molto denso di notizie. Ascoltiamo insieme. ANSA Live, Headlines. Edizione delle 19, in studio Flavia Trigiani, in redazione Ravella Marconi. Occorre adoperarsi per recuperare l'apprezzamento e il sostegno dei cittadini, e a tal fine la magistratura non può sottrarsi ad una seria riflessione critica su se stessa. Così il presidente della Repubblica Napolitano si è rivolto ai nuovi uditori ricevuti al Quirinale. Mancino alla cerimonia ha sottolineato la lungimiranza dell'Assemblea Costituente quando nominò il capo dello Stato presidente del CSM. Italo Bocchino, capogruppo vicario alla Camera del PDL, ha scritto una lettera di dimissioni al capogruppo Fabrizio Cicchitto. Bocchino scrive di voler incontrare il Premier per un chiarimento politico e annuncia di volersi candidare come capogruppo. Arrestato a Reggio Calabria il boss dell'Andrangheta Giovanni Tegano, latitante da 17 anni. Era nella lista dei 30 ricercati più pericolosi. All'uscita dalla questura il boss è stato accolto dagli applausi della folla. Il questore, una vergogna.

Volete conoscerlo anche voi? Vi presento De Marchis Auto, la concessionaria della vostra vita. Da De Marchis Auto potete scegliere tra tantissime auto di ogni marca con la sicurezza di anni di esperienza nel settore. De Marchis Auto, in via della Peschiera 5058 ad Anagni, telefono 0775 72 73 70. Il calore di una casa veramente tua lo scopri in un arredamento in sintonia con la tua personalità. Mobilificio Stazzi è l'idea che cercavi. Al Mobilificio Stazzi sei sicuro di quello che trovi e potrai scegliere in un vasto assortimento i migliori mobili delle marche più prestigiose. Al Mobilificio Stazzi la professionalità e la cortesia sono di casa. Mobilificio Stazzi, dei fratelli Stazzi, in via Anticolana ad Anagni, chilometro 2, telefono 0775 76 84 71. Mobilificio Stazzi, la casa come la pensi tu. Il tatuaggio, un'arte antica e nobile, frutto di fantasia, creatività e abilità tecnica. Un'arte che non si improvvisa. Indian Tattoo, ad Anagni, presso il centro commerciale David, di via Casilina, chilometro 62 700, Osteria della Fontana. Vi dà il benvenuto nel mondo del vero tatuaggio, praticato con le apparecchiature più moderne, in ambienti sterili, a garanzia della sicurezza dei clienti e con materiali clinicamente testati. Per tatuaggi, microdermal, body piercing, trucco semi-permanente. Indian Tattoo rispetta scrupolosamente gli standard igienici stabiliti dalle leggi vigenti, che vengono certificati dall'azienda ASL. Indian Tattoo, presso il centro commerciale David, in via Casilina, Osteria della Fontana, chilometro 62 700, ad Anagni. E per saperne di più, www.indiantatu.net. Allora, torniamo in diretta. Abbiamo fatto una breve pausa musicale, abbiamo ascoltato le notizie di Anza Live, poi una canzone di Madonna, un po' di pubblicità che non guasta mai assolutamente, e siamo tornati in diretta in questo momento, 19:25, per questo 27 aprile 2010, piovosissimo, piovosissimo, pieno di tantissima umidità, e poi questo clima così particolare, con il sole stamattina, un sole fortissimo, un sole che poi del resto è un sole anche di stagione, lo abbiamo detto in apertura, quest'oggi siamo a questa settimana che è la settimana conclusiva del mese di aprile e dove inizia appunto il mese di maggio, dove il caldo e le temperature primaverili dovrebbero essere sicuramente la parte più importante della giornata, e invece c'è questo contrasto ancora. I meteorologi dicono che praticamente è la coda finale di una perturbazione che in questi ultimi periodi ha interessato non poco il nostro paese, e forse siamo arrivati al momento giusto. Da domani dovrebbe iniziare un minimo di stabilità meteorologica. Non so poi se queste condizioni, diciamo, vengono rispettate queste previsioni, non sappiamo assolutamente. Prima di passare ad altre notizie, voglio darvi nota di un avvenimento che è avvenuto nel pomeriggio pochi attimi fa, intorno alle 17:30. C'è una polemica abbastanza velata nella nostra città. Il 25 aprile scorso, festa della Liberazione, non c'è stata nella nostra città la consueta manifestazione con l'apposizione della corona d'alloro al monumento dei caduti in piazza Cavour. Nel pomeriggio alcuni cittadini, colpiti da questo mancato evento che si ripeteva negli anni nella nostra città, hanno ritenuto di dover chiaramente apporre una corona d'alloro, come si è sempre fatto negli anni, con una manifestazione civile fatta da giovani e meno giovani. Appunto è stata deposta una corona d'alloro al monumento dei caduti in piazza Cavour, in sostituzione di quella che doveva essere poi la corona che doveva essere esposta e appunto posta sul sagrato dei caduti in piazza Cavour da parte dell'amministrazione comunale. Su radioernica.com ne potrete sapere di più tra qualche istante, quando il nostro tecnico Francesco Cecconi per l'appunto riporterà le immagini, le foto di questo evento che è accaduto pochi minuti fa, intorno alle 17.30 appunto. No, io prendo a caso una pagina, una delle tante pagine locali, e trovo due notizie che mi hanno lasciato abbastanza esterrefatto. Probabilmente tu avrai già parlato di questo, ma io voglio comunque fare un commento. Un incubo finito dopo 14 anni, praticamente un ex farmacista dell'ospedale del capoluogo, Roberto Perelli, che fu accusato di truffa, di concussione, di vari reati praticamente, e si è fatto anche 15 giorni di carcere. Questo dottore praticamente dopo 14 anni è riuscito ad avere ragione, e va dato atto della serietà del professionista, perché in effetti era caduto tutto in prescrizione e quindi sarebbe stato assolto con la prescrizione, cosa che lui ha categoricamente rifiutato dicendo no, voglio essere assolto pienamente. Insomma, ha rifiutato questa possibilità, i suoi avvocati si sono attivati, devo dire avvocati di primo livello, perché parliamo di Nicola Ottaviani e di Pier Maria De Cesaris, e praticamente finalmente la prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma ha decretato che praticamente il fatto non sussisteva, quindi praticamente di fatto è stato accusato di qualcosa che non aveva commesso. Tutto questo dietro una indagine dei NAS, furono implicati in questa vicenda anche una caposala dell'ospedale di Frosinone, un informatore farmaceutico, e praticamente alla fine è uscito fuori che era praticamente innocente dopo 14 anni e 15 giorni di galera. Io invece su questa notizia mi riallaccerei a qualcosa di molto più vicino a noi, che riguarda due avvenimenti, due accadimenti di cronaca che hanno riguardato, il primo, l'ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco. Ricorderanno sicuramente chi ci ascolta, fu arrestato per situazioni di tangenti e quant'altro. Il suo accusatore, l'uomo che praticamente aveva fatto sì che il presidente della Regione Lazio, della Regione Abruzzo, finisse agli arresti, è ora egli stesso stato arrestato da parte degli inquirenti, che in questo momento stanno facendo ulteriori accertamenti su questa vicenda per chiarire i fatti che hanno portato a quelle situazioni che hanno portato Del Turco in carcere, e sembra che ci siano degli sviluppi forse anche piuttosto clamorosi. Altra vicenda ancora invece, sempre sulle questioni del presidente, questa volta non dell'Abruzzo ma della Regione Lazio, Marrazzo, lo scandalo dei trans, la morte del pusher che aveva in un primo momento fatto sì che venisse fuori questo video che ritraeva Marrazzo insieme con i trans. Ebbene, sono stati accusati due carabinieri che praticamente sono in carcere in questa vicenda per aver ricattato inizialmente il presidente della Regione Lazio, ora sono indagati anche per la morte del pusher. Insomma, una situazione molto strana, molto particolare, che probabilmente nei prossimi giorni farà sì che anche queste due vicende vengano chiarite meglio e vengano forniti dei particolari che sembrano anche sconvolgere quello che era in un primo momento la situazione che si era palesata. Beh, su questa vicenda di Marrazzo c'è da aggiungere anche qualcos'altro, perché praticamente terminata la aspettativa, Marrazzo si è ripresentato alla RAI come si fa quando si termina un'attività politica o sindacale e si chiede di tornare a lavorare. Ora, su questo argomento c'è una lunga attività degli organi di informazione. Questa mattina ho sentito a Radio 24 una diretta dove c'erano pareri discordanti, quindi chi diceva che era giusto che tornasse a lavorare e chi diceva che invece Morgan era stato privato del video per molto meno. Ora, anche io vorrei dire la mia su questa questione, poi magari se anche voi volete aggiungere qualcosa lo potete fare allo 0775 726546. La dico subito la mia, nel senso che in questa vicenda si può sicuramente esprimere un giudizio morale sulla persona, anche se parliamo di una moralità personale, di scelte personali, perché Marrazzo in questa vicenda è stato considerato assolutamente una vittima, quindi non ci sono prove assolutamente, ma non solo non ci sono prove, non c'è una attività praticamente che possa far pensare a Marrazzo come una persona che abbia compiuto dei reati. Marrazzo è stata una vittima, si è dimesso dopo 24 ore da questa vicenda, certo possiamo dire che avrebbe dovuto sicuramente denunciare il ricatto ancor prima di essere scoperto, ma questo cosa c'entra con la possibilità o meno di tornare al suo lavoro? Io credo che abbia pieno diritto di tornare al proprio lavoro. Qui vedo invece da lontano una schermata, la faccia del sindaco Noto e una scritta secessione, mi sbaglio? No, assolutamente. Vuole fare la secessione Carlo Noto, si vuole staccare dal Lazio perché Fiorito non è stato nominato assessore. Vediamo un po' di che si tratta. Ma sì, tutto sommato può essere anche una buona notizia, simpatica al punto giusto. A questo punto, visto il pressoché totale disconoscimento della nostra provincia in ambito di esecutivo regionale, l'alternativa è di avviare un percorso di secessione che ci annetta poi ad un'altra regione, almeno secondo le conformità territoriali. E questa è la provocazione del sindaco di Anagni Noto, che con ironia e amarezza commenta la vicenda delle regionali del Lazio dell'ultima ora, proseguendo: un totale disconoscimento dell'apporto politico elettorale dato dalla provincia di Frosinone è evidente apprendendo le nomine dell'esecutivo della regione Lazio e comprovato dalle estromissioni di rappresentanti politici sociali nella giunta regionale. Io sono sindaco eletto nel PDL, ma a questo punto devo esprimere a nome degli elettori che hanno fortemente sostenuto la coalizione anche in questa tornata elettorale la delusione e le speranze disattese delle migliaia di persone che sono rimaste sbalordite dalle decisioni annunciate in questi giorni. Il nostro obiettivo di crescita politica ed istituzionale è sempre stato focalizzato su un percorso di rilancio totale del territorio, di un territorio che ha dimostrato di essere forte e compatto e che oggi non sarà minimamente rappresentato in un esecutivo importante come quello regionale, al di là delle appartenenze politiche. Anche in considerazione che continui contatti che ho avuto nelle ultime ore con i sindaci del comprensorio, quello che più preoccupa è non avere rappresentanti che possano dar voce ad un intero territorio, interpretandone fattivamente esigenze e potenzialità. Un percorso nel quale abbiamo creduto e che oggi inspiegabilmente ha cambiato rotta, discriminando un territorio che ha dato tanto sia in risorse che in impegno elettorale. Non essere rappresentati, a mio avviso, significa avere ben poca voce e ciò non potrà che ripercuotersi negativamente sul nostro futuro, sul futuro di un territorio e di un'intera provincia. Certamente non possiamo restare a guardare. Beh, bisogna dire che comunque, a parte il titolo che ancora vedo con questa proposta shock di secessione, diciamo, dalla Regione Lazio, però il contesto dell'articolo pubblicato su quale sito, tra l'altro, frosinonenotizie.it. Ecco, il contesto dell'articolo di Carlo Noto, del sindaco di Anagni, insomma, devo dire che è abbastanza equilibrato, la dice tutta, insomma, va, la dice tutta, diciamo. Per carità. Fermo per restando carità. Che, insomma, si evidenzia una delusione totale da parte del sindaco di Anagni, che poi è la delusione un po' di molti amministratori di questa città che avevano parlato del candidato Fiorito come dell'assessore in pectore, l'assessore all'agricoltura, diciamo. Però questa secessione non la vedo tanto bene, perché se qui nel Lazio si ha a che fare con i romani che hanno, come dire, fatto cappotto e ci hanno fatti olmi, come si dice dalle nostre parti, facendo la secessione, spostandosi con la Campania, si avrebbe a che fare con i napoletani, che pure lì, insomma, non è che scherzano in quanto a esercitare i loro diritti. Questi confini anche con gli abruzzesi. Gli abruzzesi pure. C'è un detto che, insomma, non vorrei ripetere, che ha a che fare con i cani. Con i cani, sì. Quindi, insomma, c'è anche la possibilità dei marchigiani. Che è ancora peggio. Non lo so, che è ancora peggio. Quindi, diciamo, ecco, questa cosa della secessione la lasciamo ad una pura battuta di spirito, però fermo restando, ripeto, le cose dette nel pezzo che hai citato su Frosinone Notizie, insomma, della posizione del sindaco Noto è condivisibile, diciamo. Sempre dallo stesso sito c'è un'altra notizia che riguarda un'operazione importante della Guardia di Finanza sul lavoro nero sulla nostra città. Ancora una volta è stato inflitto dalle fiamme gialle delle brigate di Anagni nel settore del lavoro nero a conclusione di una attività ispettiva avviata nei confronti di una società operante nel settore artigianale. In questo particolare periodo di crisi, dove molte attività vivono una serie di difficoltà economiche, molti imprenditori ricorrono ai più svariati modi di aggirare le tasse ed uno di questi è l'impiego di lavoratori in nero. Le attività di controllo coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone e dirette dal comandante della Brigata Nagnina rientrano in un piano di verifiche fiscali finalizzate alla individuazione di eventuali fenomeni di evasione fiscale e contributiva. In questo settore l'attività eseguita ha portato un controllo nei confronti di un artigiano proprio della nostra città di Anagni, finalizzato al contrasto del lavoro nero. Nel corso di questa attività gli operanti hanno scoperto documentazione contabile in materia di lavoro apparentemente regolare, fosse stata come elaborata allo scopo di eludere il fisco, avvalendosi di un professionista del settore. Gli elementi desunti da questa documentazione non avevano alcun riscontro presso gli uffici contributivi e previdenziali di Frosinone. Il controllo approfondito poi, con altre attività di investigazione e i controlli incrociati presso l'apposito albo, hanno permesso di appurare che il professionista era stato radiato dall'ordine e quindi da considerarsi a tutti gli effetti un consulente del lavoro abusivo. Il professionista non autorizzato è stato segnalato all'autorità giudiziaria competente per il reato di esercizio abusivo della professione. Complessivamente l'attività eseguita ha permesso di scoprire che la ditta individuata da circa 4 anni stava impiegando lavoratori completamente in nero. Gli accertamenti fiscali hanno altresì permesso di segnalare ai competenti uffici finanziari 50.000 euro di ricavi non dichiarati dalla ditta, oltre 10.000 di ritenute non operate e non versate dalla stessa. Quindi, insomma, una operazione piuttosto importante svolta dalla Guardia di Finanza sul nostro territorio di Anagni. Ancora su Anagni, una protesta questa mattina di fronte alla sede provinciale dell'INPS da parte dei lavoratori della Videocon, molto nutrita la manifestazione che è partita dal centro di Frosinone, si è portata appunto nella piazzale antistante la sede provinciale dell'INPS, dove ad attendere i manifestanti c'erano il direttore della sede provinciale dell'INPS con i suoi più stretti collaboratori, che hanno tentato di dare risposte ai sindacalisti, ai rappresentanti dei lavoratori e ai lavoratori stessi, che reclamano da mesi il mancato pagamento da parte dell'INPS della cassa integrazione, che viene pagata con diversi mesi di ritardo. Il direttore provinciale dell'INPS ha spiegato ai lavoratori e ai rappresentanti sindacali che è un aspetto tecnico che potrebbe essere risolto con l'anticipazione da parte del Ministero delle quote e dei ratei che poi l'INPS deve riversare ai vari lavoratori. Se tale operazione viene effettuata dal Ministero con ritardo, chiaramente questo non è implicabile, non è applicabile responsabilità alcuna all'operato dell'INPS e dei suoi dipendenti. E ha spiegato chiaramente che l'INPS è disponibile affinché praticamente tale cosa possa essere risolta, a patto che chiaramente gli accrediti siano regolari da parte del Ministero, che è preposto appunto alla rimessa delle somme che spettano appunto ai lavoratori. Sì, ho una notizia anch'io di Anagni, mi verrebbe da dire: Salvatore risale sul traliccio, non è uno scioglilingua, è che Salvatore Proietti, un amico devo dire, perché poi alla fine è anche una persona molto simpatica a parlargli, diciamo, anche se volendo ti racconta la sua vita molto rocambolesca, diciamo. Solo che Salvatore Proietti praticamente ha di fronte a casa sua, lui abita nei pressi dell'Arena, un bel traliccio dell'Enel, un bel traliccio si fa per dire, perché traliccio molto grande, tra l'altro utilizzato per far passare fili ad altissima tensione. E quando c'è qualcosa che non gli comoda, trattandosi comunque di una persona in disagiate condizioni economiche, che fa? Sale sul traliccio. Mi pare che siamo alla terza o quarta salita sul traliccio. È salito dunque di nuovo su un traliccio dell'Enel per protesta, perché avrebbe bisogno di assistenza e non ne ha. Non è la prima volta che Salvatore Proietti fa sentire la propria voce in questo modo, e ieri pomeriggio, come ha già fatto tante volte in passato, ha scelto di nuovo il traliccio di località all'Arena per innescare la sua protesta, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Anagni, che hanno convinto Proietti a scendere a terra. Rispetto alle proteste precedenti, stavolta ha lasciato l'alto e pericoloso traliccio quasi subito, anche se i momenti di apprensione non sono mancati, vista l'altezza del traliccio nel quale passa l'alta tensione, con tutti i rischi del caso. L'uomo ha chiesto di parlare urgentemente con il sindaco Noto al fine di rappresentargli il suo disagio e ottenere l'assistenza da parte delle istituzioni, non avendo un lavoro con il quale mantenersi. Una volta sceso dal traliccio, Proietti è stato calmato dai presenti ed è tornato a casa in attesa che le sue richieste vengano esaurite. Quindi a Salvatore Proietti un saluto e l'augurio che insomma si risolvano i suoi problemi, perché queste scalate alla sua età incominciano a diventare un problema. Sì, è comunemente conosciuto con un soprannome che non irripetibile. Non ripetiamo, irripetibile, no. Perché chiaramente Adanagni forse è più conosciuto. Non solo lui, cioè il suo cognome. Voi sapete che Adanagni i cognomi hanno, diciamo così, per esempio, ecco, arriva Franco Cecconi, anche lui ha la sua nomea, diciamo. I cognomi hanno anche questa cosa un po' sfiziosa del soprannome, come dice Francesco Cecconi, non so se l'avete sentito, le nommere. Sì, allora, che cosa facciamo? Siamo arrivati proprio al termine, sono 19:46 minuti prima. Ma sì, andiamo avanti ancora un po', dai, mettiamo un po' di musica e poi ci risentiamo per i saluti. Dobbiamo soltanto programmare un po' di musica, ecco, l'arriva, piano piano, ma dovrebbe arrivare, sì, arriva, arriva. Arriva? Arriva, arriva. Va bene. Eccola qui. Conti ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di deludere. La casa, l'intera giornata, il viaggio che hai fatto per sentirti più sicuro, più vicino a te stesso, ma non basta, non basta mai. Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire, da coprire per non vergognarti. Scivoli di nuovo e ancora come se aspettassi altro che sorprendere.